cadaveri impiccati pendono dai balconi e buttano nei fiumi sporchi veleni. Ti tagliano le mani sui binari, veloci treni. In Val di Susa ti fanno a pezzi solo perché non vuoi loro pupazzi. Oggi è la festa del paese, devi venire, non mancare, non ci sono scuse. Porta i bambini, si divertiranno con una Fiat americana. Emigreranno nel mondo. Lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai. Automatiche lotterie drogano i pensionati, mentre i giovani sono tutti, quasi tutti disoccupati. Per salvare il paese devi ingoiare rospi e spine, mentre loro a fine mese fanno gli squali, fanno le iene. Oggi è la festa del paese, devi venire, non mancare, non ci sono scuse. Porta i bambini, si divertiranno con una Fiat americana. Emigreranno nel mondo. Lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai. Facciano sicurezza, ma sono solo aguzzini, al servizio delle banche, al servizio dei meschini. Piove sul bagnato, anzi grandina sul mio capo. Siamo nel buio più totale, siamo all'inizio della fine. Oggi è la festa del paese, devi venire, non mancare, non ci sono scuse. Porta i bambini, si divertiranno con una Fiat americana. Emigreranno nel mondo. Ci hanno tolto anche la piazza dove gridare il nostro sdegno. Ci leveranno l'aria al cielo e uccideranno ogni nostro sogno. Ogni nostro sogno.